Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il nostro comandante è una buonissima persona. Spesso ci parla di religione e ci raccomanda di non fumare. Si attende l'ordine di partire. Le giornate trascorrono tutte uguali. La notte è infinita. Sovente mi sveglio di soprassalto. La nave, dondolandosi sull'acqua, fa cigolare le bombe con un rumore sinistro. Mi chiamo Giuseppe, ho 64 anni, sono napoletano ma vivo a Roma da diversi anni. Sono un ex dirigente delle Ferrovie dello Stato in pensione e mi occupo fondamentalmente di ricerca storica, in particolare sull'esercito borbonico, e quindi recupero anche memoriali vari e in particolare quello di mio padre nel periodo della guerra. Gennaio 1916. Scrivo seduto sul tascapane con la schiena appoggiata all'umida e gelida parete della trincea. Andiamo per ordine. Non posso precisare esattamente, ma potevano essere le 11 ieri sera, quando insieme al signor capitano, innanzi a tutta la compagnia divisa per plotoni, uscimmo dalla trincea per attaccare gli austriaci che, diceva il sergente, provavano di circondarci. Strisciando come serpi, riparandoci dietro il più piccolo sasso, arrivammo fin sotto le trincee nemiche, ove scariche di mitragliatrici, di fucileria e getto di bombe a mano ci accolsero. La notte era fitta, però non si distingueva un uomo lontano un metro, e fu precisamente per tale fatto che, appiattiti come la cicoria e immobili come un sasso, illudevamo gli austriaci che, invece di sparare su di noi, sparavano sulle trincee che avevamo abbandonate. Ad un tratto, a decina per non dire a centinaia, i raggi luminosi proiettarono una luce quasi a giorno e un grido «Savoia! Avanti ragazzi!» pronunciato dal signor capitano ci fece balzare in piedi come molle, e col fucile impugnato, col calcio stretto al fianco e con la baionetta in alto, ci slanciammo di corsa all'assalto. «Attenti! Evitate gli inganni che sono nel terreno!» gridano gli ufficiali. Cosa si prova? Quasi un halt dato durante una corsa. Ma il fischiare, l'incrociarsi delle pallottole sulle nostre teste, i gridi dei feriti, ci fecero sovvenire che il tempo non solo era ora, ma era la vita. E allora, avanti. Arrivammo così alla prima posizione nemica. Qui la lotta corpo a corpo si svolse accanita, terribile. Dio mio, che inferno, che caos di cose. Io e così tutti gli altri in quei momenti non eravamo che pazzi furiosi. La nostra voce non aveva nulla di umano, era stridula, secca come il sibilo di una sirena. La gola era arsa e si provava l'impressione di avere sete non d'acqua, ma di sangue. Sentire chiamare e invocare il santo nome di mamma, mamma mia, babbo mio, aiutatemi. La lotta man mano si intensificava, diventava terribile e prende più vaste proporzioni. Essendo entrati in azione una nostra compagnia di riserva, e credo agli austriaci siano venuti rinforzi. Una bomba mi cade vicino, con un salto mi scanso di qualche metro, ma un sasso, credo, lanciato con violenza nell'esplosione, mi colpisce il polpaccio del piede sinistro. Non è nulla, dissi e continuai nella mischia. Ormai ero fuori di me e la febbre, la corruzione della lotta mi avevano travolto nelle sue strette e terribili spire. Quanto tempo si è dovuto lottare per sgombrare il terreno ed essere al sicuro? Da calcoli fatti, la lotta deve essere durata non meno di 3 ore. Ora sono nuovamente al posto dove ero ieri. La situazione è un po' diversa, stante lo stato d'animo che mi domina. E poi, perché tacerlo? Eravamo ieri 280 e oggi siamo 160 appena della sesta compagnia. Cose da nulla, non è vero? Abbiamo però guadagnato di tornare dove eravamo. Ho la febbre quasi con sicurezza, brucio come un ferro da stiro e la testa mi pesa un quintale. Se si considera che sono pure zoppo, sono degno di rappresentare che cosa? La realtà. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui. Oggi continuiamo a raccontare storie di guerra, la prima storia che vi ho raccontato, questa è a firma di Francesco Ferruccio Zattini, c'è arrivata come quasi per tutta la settimana la prima storia dall'Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano. È una storia che insomma l'avete sentita, parla di quella roba lì, parla della guerra forse più terribile e inumana, quella della trincea in cui si rimane acquattati e poi si esce e si va verso il nemico. nemico sostanzialmente a farsi ammazzare. Il titolo di questo brano è Appiattiti come la cicoria, e appunto arriva dal 19 gennaio del 1916. Noi ogni giorno raccontiamo più o meno due storie. La prima, come avete sentito, è una storia che arriva dalla prima guerra mondiale, quella di cui cade il centenario in quest'anno, in quest'estate in realtà. La seconda invece è una storia che ci arriva dai nostri ascoltatori, come facciamo sempre, e che arriva di solito di seconda mano. La storia che sto per raccontarvi si svolge nel Mediterraneo, è un clima diverso da quello della prima che vi ho raccontato, è primavera, si vedono le stelle, ha quasi un'aura romantica. Ce la manda Giuseppe ed è firmata ovviamente dal suo babbo, da suo papà, che teneva un diario e ha raccontato tutta la guerra. Questo episodio, come vi dicevo, è ambientato sul mare, è primavera, siamo nel Mediterraneo, e per un piccolo caso della vita, o forse della guerra, lui è qui e riesce a raccontarcela. ...1941... 8 aprile. D'ordine del comandante, la commissione allestimenti e imbarchi di Napoli, vengo destinato come sottufficiale dei carabinieri interprete sulla nave tedesca Brook. Mi reco a bordo il mattino stesso. La nave è un piccolo vapore commerciale di 3.000 tonnellate, ripulita al meglio, armata di 3 mitragliatrici pesanti tedesche, servite da marinai tedeschi. La nave si trova ancorata al molo Martello ed è già carica di bombe incendiarie e dirompenti, spezzoni incendiari e benzina. Il comandante della nave, un capitano civile tedesco, grasso come un cocomero, mi accoglie scortesemente e mi indirizza alla mia cabina, situata sotto coperta, a mezza prora. Per accedere alla cabina si scende per una scaletta di legno di 10 scalini e poi serpeggiare fra le bombe incendiarie e dirompenti. È realizzata con tavole di legno verniciate e contiene 6 cuccette, 4 armadi, 2 lavandini e un tavolino con 2 panche. Faccio conoscenza col secondo capo segnalatore Giuseppe Cogoini, col sergente radiotelegrafista Francesco De Bellis, coi marinai segnalatori Giuseppe Dosio e Ciro Salamone. Poi andiamo tutti insieme dal comandante italiano, il tenente di vascello Salvatore Galatola, cinquantenne napoletano. Beh, mio padre, più che in marina, lui era un sottufficiale e un brigadiere dei carabinieri, poiché conosceva molto bene la lingua tedesca, fu incaricato di effettuare, era di collegamento tra il comando italiano e il comando tedesco sulle navi tedesche. In particolare lui è stato su un piroscafo, il Brook si chiamava, una piccola nave tedesca che effettuava dei trasporti militari tra Tripoli e Bengasi, e quindi lui era su quella nave, era di collegamento tra i due comandanti, quello italiano e quello tedesco. L'equipaggio italiano è di 5 persone, quello tedesco di 35. A bordo si mangia come in Germania. Al mattino un piatto di fagioli bolliti senza condimento, burro, marmellata, poco pane tedesco e molto caffè senza zucchero. Non perché a bordo manchi lo zucchero, bensì perché è usanza dei marinai tedeschi pigliare il caffè senza zucchero. A mezzogiorno un piatto di vitamine bianche amarissime o una zuppa dolce come la marmellata, caffè o tè. Verso le 16, colazione con pane, burro e marmellata e col solito tè o caffè. La sera, altro piatto di fagioli o pasta bollita semplice, con insalata e tè. Il comandante tedesco è rigoroso, fuma sempre la sua pipa bianca sul ponte di comando. Passa il tempo col suo canarino e col suo cane. Il nostro comandante è una buonissima persona. Spesso ci parla di religione e ci raccomanda di non fumare. Qui si attende l'ordine di partire. Le giornate trascorrono tutte uguali. La notte è infinita. Sovente mi sveglio di soprassalto. La nave, dondolandosi sull'acqua, fa cigolare le bombe con un rumore sinistro. Spesse volte di notte faccio dei giri di ispezione sulla coperta e sui ponti. Il cigolio delle bombe non mi dà pace. 19 aprile. Finalmente giunge l'ordine di partenza. Alle ore 18:30 si levano le ancore e si inizia il viaggio verso Tripoli. È con noi il vapore tedesco Tillimrus, anche questo di 3.000 tonnellate e con il carico uguale a quello del Brook. Ci scorta l'incrociatore ausiliario Città di Genova. 20 aprile, alle 14:30, siamo all'ancora nel porto di Palermo. Trascorrono i giorni e non perviene alcun ordine di partenza. A bordo la vita scorre monotona. Io passo il tempo imparando a montare e smontare la mitragliera antiaerea tedesca Flak. La sera vado a cinema o a teatro. Al Soldatenheim, dove sono stato per due volte con un caporal maggiore tedesco imbarcato sul Brook, sento che i tedeschi sparlano degli italiani, facendo riferimento ad un convoglio navale italo-tedesco completamente distrutto dagli inglesi nel canale di Sicilia perché mal protetto dalla marina e aeronautica italiana. In seguito avrei appreso che si trattava del convoglio Tarigo con trasporto truppe e munizioni andato completamente distrutto la notte del 16 aprile. È il 30 di aprile oggi, giunge l'ordine di partenza e alle 20 si salpano le ancore verso Tripoli. Il convoglio è composto dalla petroliera italiana Bainsizza e un'altra petroliera italiana, il rimorchiatore tedesco Max Barend, i due vapori tedeschi Tillimrus e Brook, due torpediniere italiane Clio e Montanari. Primo maggio. Siamo a molte miglia da Palermo. Oggi è festa in Germania, ma i nostri camerati a bordo lavorano duro. 2 maggio. Alle ore 14 3 cacce inglesi ci colpiscono alle spalle, mentre le due torpediniere sono avanti a noi. Volano a bassissima quota, mitragliano e bombardano prima il rimorchiatore, che è in coda, e poi il Tillimrus, e poi contemporaneamente il Brook, il Bainsizza e la petroliera. Le raffiche di mitragliatrice bucano il ponte in legno, mentre alte colonne d'acqua si levano ai fianchi della nave. Sento le pallottole fischiare e le vedo seguirsi nell'aria una dopo l'altra infuocate. Cerco riparo sotto il parapetto in ferro della nave mentre le pallottole vi si schiacciano contro. I mitraglieri di tutte le navi aprono un fuoco abbastanza nutrito e gli inglesi proseguono. Nessun morto né feriti né danni materiali. È stata la prima prova di fuoco. Devo dire che effettivamente io ho compreso che coloro che hanno partecipato ad eventi di guerra e poi li hanno trasmessi, li hanno trascritti, non sempre diciamo mostrano le loro sensazioni, perché devo dire che secondo me l'aver visto da vicino la morte non consente alle persone che la descrivono di essere, come devo dire, romantici, ma sono estremamente freddi, perché chi ha visto la morte in faccia effettivamente la descrive così. Verso le 18, due nostre torpediniere provenienti da Tripoli ci vengono incontro per darci maggiore protezione. 3 maggio, all'alba, siamo vicini alle coste tunisine. Un tristissimo spettacolo si offre al nostro sguardo. Alberi di navi spuntano fuori dal mare pieno di grasso. Qua e là, legni, barattoli di latta, bottiglie indicano il recente affondamento del convoglio Tarigo. E qui, facendo un importante passo indietro, fermiamoci. Quando fu imbarcato sul Brook, il carabiniere Luigi Zinkavic, anche lui interprete, mi disse che era stato destinato sul Brook, la mia nave. Ma avendolo visto piccolo e lento, aveva chiesto al comandante di farlo imbarcare sulla motonave tedesca Iserlohn, più veloce, più grande e con le cabine sopracoperta. Mi chiese dunque se io fossi d'accordo, al che acconsentì. Essendo stato quindi accontentato, Zinkavic fu destinato all'Iserlohn ed io al suo posto, qui, sul Brook. Ma l'Iserlohn faceva parte del convoglio Tarigo e quindi, adesso, giace sul fondo del mare con altre navi di quel convoglio e le torpediniere che lo scortavano. Zinkavic è stato dato per disperso, come per la quasi totalità degli equipaggi delle navi. Zinkavic era partito da Napoli 24 ore prima di me. Ed il suo convoglio aveva fatto rotta diretta verso Tripoli. Ma poi, nottetempo, il convoglio era finito sotto l'agguato delle navi inglesi ed era andato affondato completamente. Per questo motivo, il mio convoglio era stato prima indirizzato per Palermo e poi, lì, fatto sostare. Spesso medito sul fatto che la fine di Zinkavic sarebbe dovuta toccare a me. E anche se esiste il destino, oppure è ogni persona che inconsapevolmente lo crea di propria volontà. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again a million miles away, I would keep myself. I would find a way. È un bel signore Giuseppe, che chiaramente è il figlio del protagonista della storia, che ce l'ha scritta e ce l'ha inviata in questa settimana di storie che raccontano di guerra. È un bel signore con una camicia nera, una maglietta nera sotto, insomma sembra quasi un attore, ha i capelli leggermente brizzolati e guarda dritto dritto in camera. Pronto Giuseppe, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Come stai? Benissimo, e te? Io benone. Ti ringrazio molto per la storia che ci hai mandato. Devo dire che tutte queste storie che abbiamo raccontato in questa settimana, in cui abbiamo raccontato storie di guerra, erano tutte ovviamente molto toccanti, molto emozionanti e soprattutto erano molto, come dire, molto umane. Raccontavano proprio, forse perché la guerra è un contesto in cui viene fuori inevitabilmente una parte proprio dell'essere un uomo in mezzo a quel disastro che succede. Giuseppe, tra l'altro, scusami, tu di dove sei esattamente, Giuseppe? Io sono di Napoli, però da molti anni vivo a Roma per motivi di lavoro. Cosa che fai nella vita? Adesso sono pensionato, ma sino a qualche anno fa ero dirigente presso le Ferrovie dello Stato. Ok, tra l'altro tu sei proprio omonimo ma in pieno di un mio carissimo amico che vive a Messina. Ah. Che si chiama Giuseppe Pavone, uguale. Infatti quando ho visto il nome ho detto, cosa ha fatto? Mi ha scritto una storia, ma suo padre non è stato in guerra. Scusami, dicevamo, questa storia tuo papà quante volte te l'ha raccontata? Beh, mio padre, oltre ad avermela raccontata, l'ha proprio scritta in un diario di guerra. Lui lo scriveva giornalmente, ha preso degli appunti, e quindi io l'ho tratto proprio dal suo diario di guerra. È stato pubblicato o è rimasto manoscritto? Non è stato pubblicato, io l'ho trascritto, però ho in mente di pubblicarlo perché ci sono delle storie verissime, quindi potrebbe essere interessante. Tra l'altro, guarda, non so se ti interessa o se lo conosci, ma noi, tra l'altro, a inizio di questa settimana abbiamo parlato con una persona che si occupa dell'archivio dei diari, dell'archivio nazionale dei diari di Pieve Santo Stefano. E se conosci, perfetto. Dovesse interessarti, loro sono sempre molto aperti a ricevere diari di persone che hanno voglia di condividere un pezzo della loro vita e in questo caso un pezzo anche della storia italiana, certo, ovviamente. Senz'altro. Quindi lui ha scritto molto di più in questo diario, cioè tutta la guerra. Sì, ha scritto parecchio, ha scritto praticamente sono circa 3-4 anni di guerra, sino anche alle quattro giornate di Napoli. Ci sono stati diversi eventi che non sono nemmeno trascritti, diciamo, sui libri, perché ci sono stati molti eventi, diciamo, umani, in particolare anche ad una fucilazione che lui ha purtroppo ha dovuto prendere parte, diciamo, prendere parte, che purtroppo non è neppure, diciamo, come dire, passata la storia, quindi è piena di moltissimi eventi. Senti, perché, per quale motivo hai scelto proprio questo qua? Ma questo qua perché, diciamo, è un fatto casuale, cioè lui si era trovato con un altro suo commilitone, lui era all'epoca brigadiere dei carabinieri, conosceva il tedesco e quindi veniva inviato sulle navi tedesche. Certo, far da traduttore. Come traduttore, come collegamento tra i due comandanti. E siccome è avvenuto che per uno scambio tra persone, tra lui e un altro suo commilitone, in pratica lui si è venuto a trovare su di un convoglio che non è stato, diciamo, abbattuto dagli aerei, diciamo, dell'epoca, mentre invece il suo commilitone si è trovato su di un convoglio che è stato completamente affondato. Quindi lui, per questo scambio di persone che è avvenuto tra di loro due, perché si sono scambiati semplicemente, le navi, lui è sopravvissuto. Lui è sopravvissuto e ha potuto, quindi, e invece l'altro no, e quindi questa cosa lo ha toccato moltissimo. E infatti lo racconta molto bene, no? Parla di questo Zinkevich, Zinkevich, esatto. Credo, spero di averlo pronunciato bene, che con cui proprio si scambia. Tra l'altro, per richiesta di questo Zinkevich stesso, no? È lui a chiedergli. Esatto, stato proprio Zinkevich, di cambiare. Voleva, diciamo, viaggiare su una nave più comoda, in poche parole. E mio padre, che è stato sempre un po' nella sua vita, non devo dire fatalista, ma ha lasciato stare, diciamo, il destino, non lo ha mai voluto forzare. E quindi questo in un certo senso è stato un insegnamento anche per me. Io non ho mai nella vita forzato il destino, e ho lasciato che le cose andassero come dovevano andare, e lui quindi si è venuto a trovare proprio per questo motivo, diciamo in vita, e il suo amico è morto. No. Giuseppe, che cosa ha fatto poi il tuo babbo dopo la guerra, nella vita di mestiere? Beh, dopo la guerra lui, diciamo, non si è raffermato nell'Arma dei Carabinieri, e siccome era un insegnante elementare, quindi lui ha continuato questa sua attività di insegnante sino alla pensione, ed è stato, devo dire, non perché era mio papà, ma è stato un ottimo, diciamo, insegnante elementare, un ottimo maestro, come si diceva una volta. Giuseppe, ti devo salutare, ma ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata e per la storia che ci hai mandato. Grazie a voi tutti. Ciao, a presto. Ciao, grazie, Giuseppe, ciao, buona estate, grazie. E mi fa piacere chiudere con una storia come questa e con il racconto anche da parte di Giuseppe nei confronti del proprio padre, no? Di questa idea di fatalismo che in qualche modo lo ha fatto sopravvivere. Con questa storia noi chiudiamo questa settimana di racconti, che è stata una settimana di racconti dedicata alla guerra in ricordo del centenario della Prima Guerra Mondiale. Ecco, io spero che non sia passato una sorta di aura romantica legata a queste storie, perché la guerra è una roba che fa schifo, e fanno schifo le persone che la fanno e quelle che ci mandano altre persone innocenti a creparci là. Io spero solo che questa roba qua rimanga come una testimonianza che quella roba è una merda, e spero che non succeda mai più, e così lo spera tutta la redazione anti-interventista e antimilitarista di Voi Siete Qui, Tiziano Bonini, Pietro Lacorte e Margherita Hina. Noi continuiamo a raccontare la settimana prossima con nuove storie di viaggio o avventura. Settimana prossima lo decidiamo lunedì direttamente. Voi intanto, se avete voglia quest'estate, scriveteci i vostri racconti di vita, un racconto che racconti qualcosa di voi. Voi siete qui, @radio24.it. Buon fine settimana, grazie a tutta la redazione, grazie soprattutto a Giuseppe, perché la storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa.